Grazie del cielo. Tu non sei con segnale radio 5, dai. Ma non sono con segnale. Ma sono di segnale. È ottimo, per essere così lontani è ottimo. Ma va bene, già va bene. Io me ne starei mando, sì. Sì, sì, pure tu all'incirca sei così. Perfetto, perfetto. Già va bene, già va bene. E niente, e va bene. Dai, sono stato giusto per... che era accesa e stavo controllando un po' la situation, un altro giorno stava dando problemi, stava piovendo, sono salito le stazionarie. Beh. Ma l'hai trovato bene, non mi ha messo un caricato, sì, tutto in giro in giro. Sì, Anto, c'è tutto, ma è... l'altro giorno era un da maggiore, era. Capito? Non riuscivo neanche a raccordare, boh. Ma poi non so neanche stazionare, mia, attenzione. Sono falso, insomma, perché l'acqua fa da quel... da quel risultato di furno sensazionario, eh? Sì, ma faceva solo come pioveva, aspettava di piovere, se fa zero e funzionava perfetto, se iniziava a piovere fuggia a campo, sicuramente si stava filtrando acqua dentro il campo, sicuramente da qualche parte, allora, era lesionato e corre l'acqua. Strano, molto strano. Sì, perché c'è appena la guerra fissata, ma appena. E sicuramente adesso col tempo è riuscita, si sta rovinando ancora di più e è stato regolato. Capito, ma secondo come cola si infiltra e fa casino. Tutto di più vulcanizzato, ora che non entra più, era. Ma devo cambiare, c'ha già un po' di anni questo carro, anche tu. Capito, vedo, c'è ancora la stazza, ce l'avevo, messa a due. Cos'è, 213? 213, poi c'è una casa che si mette ossidata. Capito. Ma tu lo sai dove che... come si dice, il problema, dove potrebbe entrare l'acqua? Ti dai un giro di cosa, ma non te lo fatti più. Cosa tu? Non sai tu il punto dov'è. Dov'è il punto? Dove è sbucciato, dove è appena appena lesionato. A ricordare, ma ha detto, ma adesso una volta a controllarlo, che si vede. Adesso mi ricordo se in alto o a metà, avevo controllato, non mi ricordo veramente dove c'era questo buchetto. Cavolo, lui dava un giro di vulcanizzata, non lo facciamo più. Lo so, però c'è una calza nera. E allora ci vuole buttato. Capito, per quello che volevo cambiare. Sto aspettando che migliori il tempo. Se no lo posso fare. E augurare un cavo, Cosa tu? Se ce l'hai il capo. Ah, sì, quello ho già procurato, il cavo c'è problema. Quella cosa. Allora già va bene. Io vi farò la prima, però io vi farò la mia. Non vi prendere e vi farò la prima, va. È già niente, ciao. Questo qua che mi è rimasto, se non sbaglio, era il pezzo che era dentro casa, parte entrava dentro casa e parte entrava fuori, e poi avevo messo il maiotto per prolungare senza il 213, quel pezzo che mi mancava per arrivare all'altra stanza, capito? Capito. Oh va, che tu? Ti fa un... Cosa tu? C'è la radio è un po' bassa. Va meglio ora. Adesso è più chiaro, più compaio. Ho detto che costa molto che si dice tutti i cial nostro. Sì, io non so tu. Non lo so, io perché ho recuperato. Non lo so neanche quanto sia adesso al metro che c'è per se non ho detto giovare 4 euro o 5 euro al metro. Mi sembra che all'epoca avevo fatto una cosa del genere. Mi sembra. No, un po' di anni fa sto parlando. Due anni fa era 2 euro, a 2 euro 2,50 al metro. E anche il 58? 213. Ah, 2,13. Costa. Vabbè, però cioè, ci sta. E vabbè, anche se è rigido, però fa venuta. Ah, io già c'ho quello, l'H155. Quello di adesso? Sì, c'ho proprio quello, ma la dice da casa. Tutto H155, lo conosci? Sì, già lo conosco, è cavo tu. È buono, buono. Allora, è anche rigido con il 213, quello è più morbido. Più fine, eh? Più fine, però la resa è quasi come quello che hai tu. Sì, sono simili. Vabbè, a te lo ti lascio che mi sto curando il telefono, e non scendere giù, sentiamo le prossime. Ciao, Andrea, ciao. Ehi, a tutti, ciao.